2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 24 maggio 2014. Benvenuti o bentornati a 2024, il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e su Twitter, ma come spesso succede, i nostri ascoltatori si divertono, ma con molto piacere anche da parte nostra, a scrivere messaggi che vanno oltre i 140 caratteri di Twitter, o anche alcuni post che sì, possono anche essere molto lunghi su Facebook, ma magari l'email è più comoda. Allora, continuiamo a dire, però sono gli ultimi giorni che lo possiamo dire, magari dalla prossima settimana potremo anche parlare di questo con alcuni politici. Abbiamo evitato per ovvi motivi, oltre che di opportunità, di par condicio e di mille altre cose, anche di peso rispetto ad altri programmi e di competenze rispetto ad altri programmi, ma continuiamo a dire che purtroppo in campagna elettorale, almeno tra i grandi leader, nessuno ha parlato di innovazione tecnologica, di rete a banda larga, una infrastruttura fondamentale per il futuro del nostro paese. Registriamo questo e naturalmente non possiamo che lamentarcene e considerare questo atteggiamento piuttosto deplorevole e non al passo con i tempi. Allora, finora si è anche congelato, vista la campagna elettorale, tutto il lavoro per aggiornare le tariffe del compenso per coppia privata. Naturalmente aggiornare vuol anche dire, può anche voler dire abbassare. Le posizioni sono sempre quelle: l'industria della tecnologia è contraria, tutto il sistema della cultura e dei detentori dei diritti sono d'accordo, come è ovvio, perché questo è un meccanismo che fa entrare in modo arbitrario molti soldi. Adesso parliamo di 70 milioni, ma l'ipotesi è quella di aumentare fino a 200 milioni i soldi che entreranno nelle casse della SIAE, che poi li ridistribuisce agli autori. E noi diciamo in modo arbitrario perché non si capisce perché un professionista che compra uno smartphone, un tablet o un computer debba pagare una cifra di alcuni euro che poi vanno a finire agli autori, quando magari quello strumento viene utilizzato solo per lavoro o anche per altre cose. Che ne so, magari uno si diverte ma non si diverte con la musica, fa qualsiasi altra cosa. Comunque, questo l'abbiamo detto più volte, finora il ministro Franceschini, che noi abbiamo contattato per un'intervista ma che finora si è negato, è sembrato più dalla parte del mondo della cultura più che da quello del mondo dell'industria. Se l'aumento venisse approvato poco dopo le elezioni, beh, questo sarebbe una conferma che si tratta di un provvedimento così impopolare da non essere, da non poter essere firmato prima delle elezioni. Vedremo quello che succederà. Poi sicuramente tutti i siti internet titoleranno: il governo tassa i telefonini. Tecnicamente non è correttissimo, ma poi la sostanza è quella, e poi non riguarda solo i telefonini. Adesso abbiamo alcune digital news della settimana. Digital news. Iniziamo da una notizia che riguarda Facebook, che ha fatto un passo in avanti molto importante e molto interessante per la tutela della privacy. Allora, tutti i nuovi account avranno come impostazione standard, quindi quella di default, la condivisione dei messaggi e di tutti i contenuti che vengono postati sul social network solo con gli amici, invece che come accade oggi verso tutti. Quindi un passo in avanti sicuramente importante. A proposito di privacy, vi segnalo una guida appena lanciata dal garante della privacy italiano, che si intitola molto semplicemente "Come tutelarsi nell'era dei social network". La trovate sul sito internet del garante della privacy, che è www.garanteprivacy.it. Digital News. Se avete un account eBay, allora è meglio che cambiate la password. Probabilmente, anzi sicuramente, il sito di Aste Online vi ha comunicato la necessità. Comunque, diciamo anche che sarebbe una buona norma cambiare ogni tanto le password dei principali servizi che usiamo su internet, questo in generale. Tuttavia, questa settimana l'invito è arrivato in particolare appunto da eBay, dopo che i tecnici di eBay hanno scoperto una violazione dei sistemi informatici avvenuta tra febbraio e marzo, che però non ha compromesso nulla, nessun account, insomma nulla di particolarmente grave, però in via precauzionale meglio cambiare le password. Digital News. Spotify ha annunciato di avere tagliato il traguardo dei 10 milioni di abbonati, ma chi paga è solo un quarto degli ascoltatori. Quindi gli utenti attivi nei 56 paesi del mondo dove esiste Spotify sono circa 40 milioni, un quarto di questi paga un abbonamento per la versione premium. Digital News. Nel frattempo Samsung Music Hub chiuderà il 1 luglio, una conferma in più che Samsung fatica a creare servizi di successo. Come molte volte abbiamo detto o hanno detto i nostri esperti, vince chi crea software e servizi, perché oramai sull'hardware i margini diventano sempre più risicati perché c'è troppa pressione competitiva, e quindi questa sicuramente non è una buona notizia per l'azienda coreana. Digital News. Parliamo di LTE, di 4G. TIM e Vodafone in modo particolare proseguono nell'aggiornamento della rete mobile verso il 4G. Telecom ha fatto sapere in settimana di avere coperto già 713 comuni e di avere così superato una copertura del 50% della popolazione per i servizi 4G in outdoor, che un conto è avere una buona ricezione LTE fuori dalle case, dagli edifici, un conto è averla dentro, quindi i problemi sono un po' come per il 3G, dentro agli edifici è un po' più difficile. TIM sostiene di volere coprire tutti i comuni con più di 35.000 abitanti entro il 2016. Digital News. E a proposito di LTE, che chiamiamo o LTE o 4G, ma secondo me è meglio chiamarlo 4G, Ericsson e Telstra, che è il principale operatore mobile australiano, hanno fatto un esperimento su rete LTE 450 megabits al secondo utilizzando la tecnologia LTE Advanced Carrier Aggregation. Ma questo non deve farci dire che si può far tutto con il wireless, con il 4G o l'LTE, perché come molti sanno, per alimentare la cella, quindi l'antenna che poi spara il segnale 4G, serve la fibra. Quindi continuiamo a dire che serve una rete in fibra ottica che raggiunga in modo più capillare possibile tutte le zone del territorio. Digital News. Microsoft ha presentato il nuovo Surface Pro 3, che prosegue la linea dei tablet. In questo caso si tratta di fatto, anche viste le caratteristiche, di un computer portatile che è fatto a forma di tablet. Molto bello, è un 12 pollici molto potente, è leggero, pesa 8 etti e è anche molto sottile perché ha uno spessore di 9 mm. In Italia sarà disponibile a partire dalla fine di agosto con prezzi che vanno da 819 euro fino a 2000, ma il confronto va fatto non con i tablet ma con i computer portatili di fascia molto alta, quelli super portatili, e quindi i prezzi insomma si allineano a questi prodotti. Digital News. Ultima notizia riguarda Netflix, che ha annunciato l'attivazione del servizio di video on demand in altri paesi europei entro il 2014. Oggi Netflix è presente già, oltre che naturalmente negli Stati Uniti e in altri stati dell'America, sia centrale che del sud, in Inghilterra, Irlanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Olanda. Arriverà nei prossimi mesi in Germania, Austria, Svizzera, Francia, Belgio e Lussemburgo. L'Italia rimane fuori perché Infinity di Mediaset e Sky Online hanno già opzionato i diritti per lo SVOD, l'abbiamo detto altre volte che cos'è, cioè il Subscription Video On Demand, e in questo caso ci sarebbe stato poco spazio, poco catalogo per Netflix. Una segnalazione prima di proseguire con il programma di questa settimana: in questo weekend c'è un appuntamento che ci dà anche il là dei tempi, ci fa capire quello che sta cambiando e sta succedendo. Abbiamo parlato più volte di droni, abbiamo parlato 2024 con alcuni approfondimenti e con alcune interviste, sicuramente ne riparleremo in altre occasioni. Beh, a Roma in questo weekend c'è il Drone Expo and Show, quindi la prima fiera anche in Italia sul mondo dei droni, un segno dei tempi che stanno cambiando, di queste macchine che stanno diventando, non dico popolari, ma che si stanno espandendo in molti settori, visto che il sistema è anche stato regolato in modo più preciso dall'ENAC, sicuramente un appuntamento molto interessante. Questo è 2024, adesso parliamo di commercio elettronico. Questa settimana a Milano c'è stato il forum del commercio elettronico italiano, un appuntamento annuale dove si fa un po' il punto della situazione, si raccontano alcune novità, gli esperti e anche gli aspiranti che vogliono entrare in questo mercato pieno di opportunità si presentano e si incontrano. Abbiamo parlato dell'andamento del mercato, delle novità e delle opportunità con Roberto Liscia, che è il presidente di Netcom, il consorzio del commercio elettronico italiano. La cosa più rilevante, ed è un piacere poterla dire in questa in questo incontro radiofonico che è avvenuta, e che l'Italia si è desta. Gli italiani sono diventati digitali. Negli ultimi 24 mesi siamo passati praticamente da 9 milioni di italiani che comprano online a 16 milioni. È una cifra molto significativa, perché rappresenta il 53% degli internauti. Il 53% degli internauti italiani comprano online, ed è la stessa cifra che avviene in tutta Europa. Quindi gli italiani, in termini di comportamento, non sono diversi dai francesi, dai tedeschi, dagli olandesi o dagli altri paesi. Questo è un fatto importante, e questo fenomeno è stato ovviamente facilitato dalla forte influenza che hanno avuto gli smartphone e i tablet nel comportamento degli italiani, non soltanto per l'acquisto ma anche per la ricerca dell'informazione. Anche perché sappiamo che l'acquisto è un atto, ma che fa parte di un processo più complesso, nel senso che le persone prima di acquistare si informano. E dove si informano? Si informano sul mobile, sul tablet, sui negozi, si informano per la strada, si informano da diversi punti in qualche misura di contatto. E quindi questa facilità di ricercare informazioni senza bisogno di essere delle persone abituate ad utilizzare un PC o non utilizzarlo per nulla, ha fatto sì che in questo momento ci si ritrovi in una situazione in cui l'Italia degli italiani è più avanti dell'Italia delle imprese. 16 milioni di italiani comprano online, ma il numero di imprese italiane che vendono online è ancora il 5% rispetto alla media europea, che è del circa il 15%. Quindi un terzo come percentuale delle imprese rispetto alla media europea. Questo è un fatto molto importante, perché è stato dimostrato, e noi abbiamo presentato i dati della ricerca che abbiamo fatto a livello europeo, che praticamente a livello consolidato dell'Europa il 3% del PIL europeo è generato dal commercio elettronico. Il che significa che se l'Europa non avesse il commercio elettronico sarebbe stata in recessione negli ultimi 2 anni. E la recessione dell'Italia è generata dalla mancanza di capacità di competitività digitale delle imprese italiane, tant'è che la percentuale di PIL delle imprese italiane digitali sul PIL totale è sotto l'1%. Quindi dobbiamo fare in modo, e il successo che abbiamo avuto del nostro evento con 3.500 partecipanti dimostra che le imprese hanno capito questo ritardo, e le imprese stanno cercando di capire come agire e reagire ad un ritardo che in realtà sta facilitando le imprese estere. E questo è dimostrato anche dalle cifre. È vero che il commercio elettronico italiano è cresciuto del 20%, ma è anche vero che è cresciuto il saldo negativo del rapporto tra import e export, nel senso che si importano più merci per circa 1,5 miliardi rispetto alle merci che si esportano. Quindi l'Italia sta perdendo competitività soprattutto su uno degli assi fondamentali della sua capacità di competere, che è l'export. Quindi da questo punto di vista potremmo dire che esiste la domanda, cioè i consumatori chiedono e acquistano online, ma sul lato dell'offerta è cambiato poco, e qualcosa forse si sta sviluppando, ma molto lentamente. Ci sono delle scuse, al di là dell'arretratezza digitale di molte aziende italiane, ma ci sono delle scuse guardando all'ecosistema italiano o no? La risposta è affermativa, purtroppo. Ci sono alcuni fattori. Direi che il primo fattore è la cultura dell'impresa italiana. Gli imprenditori sono poco avvezzi a considerare la tecnologia come leva strategica, e hanno sempre considerato l'informatica come fattore abilitante ad abbassare i costi. Invece oggi la tecnologia è un modo per rigenerare la propria impresa e per pensare a nuovi mercati, per pensare all'export, per pensare anche a nuovi prodotti. La seconda ragione è che le imprese italiane sono più piccole delle imprese europee, e questo nanismo rende molto più difficile affrontare costi che non sono costi ma sono investimenti, e la sottocapitalizzazione delle imprese italiane non facilita questo passaggio ad investimenti di natura strutturale, perché la tecnologia è strutturale quando la si considera strategica per poter permettere una, in qualche misura, reinventarsi o rigenerare il nuovo modello di business nell'epoca del digitale. Il terzo fattore è che la legislazione, la normativa, che è diventata molto molto complicata sul commercio elettronico, perché si sovrappongono diverse leggi che incidono sul settore, è una normativa che costa, per cui le imprese internazionali di grande dimensione hanno facilità ad affrontare la normativa e in qualche misura farla diventare addirittura leva di competitività, perché un'azienda che è normativamente in regola in qualche misura compete meglio di un'azienda che non lo è. E naturalmente la legislazione e la normativa per le imprese piccole italiane pesa molto di più. E questo, fra l'altro, noi abbiamo fatto un manifesto a livello europeo che abbiamo mandato a tutti i candidati parlamentari europei in questi giorni, uguale in tutta Europa, proprio per denunciare il fatto che dobbiamo creare una normativa facilitante per le piccole imprese a livello europeo. Perché evidentemente questo problema è vero non soltanto per le piccole imprese italiane, ma anche per le piccole imprese degli altri paesi. E questo, fra l'altro, sta facilitando nel mondo digitale la competizione dei grandi gruppi, tant'è che in Europa ormai è risaputo che i 30 principali gruppi europei che fanno digitale sono grandi imprese, non ce n'è neanche un'italiana. Per esempio Alibaba, che si sta quotando in borsa, ha un fatturato che è 10 volte da solo del fatturato di tutta l'Italia messi insieme. Quindi in realtà la competizione è una competizione che si sta facendo molto difficile. Adesso ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, riprendiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. C'è un altro punto che frena l'ingresso delle aziende italiane, di molte aziende italiane, nel sistema del commercio elettronico, che è tutt'altro che semplice, ma le opportunità però sono incredibili e interessantissime. L'altro punto ce lo stava spiegando Roberto Liscia, che è il presidente del Consorzio del Commercio Elettronico Italiano. L'altro punto molto importante è evidentemente l'aspetto infrastrutturale della banda larga, perché è vero, spesso si dice che la banda larga non è necessaria perché non ci sono contenuti, ma se non c'è la banda larga i contenuti non vengono generati, quindi è sempre un problema in qualche misura del gatto e della coda del gatto, insomma. Quindi credo che dobbiamo affrontare questo tema soprattutto a livello legislativo, normativo, ma più anche ancora di pianificazione industriale a livello del sistema Italia, perché l'Italia ha avuto questa grande forza di competere sui distretti in qualche misura industriali. I distretti industriali sono stati messi alle corde dalla competizione internazionale, dalla competizione dei paesi emergenti. Oggi dobbiamo considerare che il distretto può essere rigenerato nel modello italiano attraverso il digitale, creando dei consorzi di impresa, dei distretti digitali, in maniera tale da favorire la riaggregazione, che in Italia non passa attraverso la creazione di grandi imprese perché non ci sono, ma passa attraverso strutture e organizzazioni di natura collettiva e consortili. Su internet naturalmente c'è molta competizione, mi sembra, parlando, venendo ai vostri eventi, leggendo un po' di dati, di numeri di ricerca, parlando con gli operatori, che il grado di soddisfazione degli utenti sia molto elevato. Tuttavia so che a breve scatteranno nuove norme a tutela dei consumatori. Cosa cambia da questo punto di vista? Questo è molto importante, perché la normativa a favore del consumatore digitale è tra le più stringenti di tutte le normative esistenti. Il consumatore digitale in Europa è molto protetto e la nuova decreto legislativo che è entrato in vigore il 21 febbraio e che sarà operativo dal 13 giugno impone delle regole ancora più stringenti alle imprese, e vi faccio alcuni esempi. L'obbligo della trasparenza totale delle informazioni sui siti. Sul sito deve essere esplicitato fin da subito quali sono i costi complessivi per il cliente consumatore, e nell'esplicitazione dei costi c'è l'obbligo di esplicitare anche i costi relativi alla restituzione della merce. Quindi il cliente deve sapere, se restituisce la merce, quanto gli costa la spedizione di ritorno. Se questo non è esplicitato, il vendor, il merchant, il negoziante è obbligato a farsi carico lui stesso di questi costi. La seconda cosa molto importante è che il cliente non ha più 10 giorni di tempo per decidere di restituire la merce, ma ne ha 14. 14 giorni per pensare se restituire o meno la merce e 14 giorni per restituirla, il che fanno 28 giorni. Ma nel momento in cui comunica al merchant che ha restituito la merce semplicemente mandando un fax al merchant, il merchant, cioè il venditore, ha l'obbligo nei prossimi 14 giorni dalla ricezione di questa comunicazione di restituire i soldi nelle forme in cui è stato pagato. Altre informazioni sono: non ci possono essere carichi di spese aggiuntive rispetto agli strumenti di pagamento, deve essere molto chiaro che il cliente deve ricevere la merce ovviamente entro 30 giorni dal momento in cui ha fatto l'acquisto, e ci sono una serie di regole molto molto importanti. Ora, queste regole, gran parte di queste regole noi le condividiamo, perché chiaramente danno al consumatore ovviamente la possibilità di avere più fiducia nel merchant, e soprattutto creano delle regole uguali a livello di tutta Europa. Dico questo perché un dato che noi abbiamo presentato in questi giorni al nostro osservatorio dimostra che le vendite transfrontaliere avranno un incremento del 20%, mentre le vendite all'interno dei singoli paesi tenderanno ad entrare in una fase un pochettino più matura, ovviamente. E quindi per l'Italia, come per gli altri paesi, la conquista si fa sui mercati esteri, ed è evidente che la conquista dei mercati esteri si fa se ci sono regole omogenee in tutto il territorio europeo. Questo naturalmente non è ancora facilitato da normative come l'IVA, che sono molto diverse da paese a paese, non è ancora facilitato dalle regole per esempio sulla privacy e sui cookies, che sono diverse da paese a paese. Quindi l'Europa unita non esiste ancora, quantomeno questo nuovo decreto però crea l'Europa unita del consumatore. Sì, verrebbe quasi da dire che è meglio da molti punti di vista, non ultimi quelli che tu hai elencato, acquistare online rispetto al negozio fisico, dove certo la merce si tocca, ma a volte toccare la merce non è tutto. Assolutamente sì, l'acquisto online è sicuramente un acquisto molto interessante, perché permette di fatto di confrontare le specifiche del prodotto, consente di avere di fatto un negozio infinito, nel senso che la scelta che si può trovare su internet è molto ampia, e consente di utilizzare casa propria come un camerino. I tedeschi per esempio sono abituati a comprare tra virgolette 4 vestiti, poi ne ricevono 4, ne restituiscono 3, mantengono quell'uno che è per loro quello della loro scelta, e questo fa della casa il camerino. Addirittura in Cina c'è un sistema di vendita che permette di portare la merce a destinazione del compratore cinese, e il sistema di logistica, cioè lo spedizioniere, assicura di aspettare quindi il prodotto restituito, in maniera tale che la casalinga o il casalingo cinese possano provare il vestito o le scarpe e restituire immediatamente quelle che non vogliono trattenere. Quindi di fatto il processo che sta avvenendo è un processo molto ampio, dove però non tenderei a mettere in discussione il modello fisico del negozio fisico, perché il negozio fisico giocherà un ruolo sempre più importante in questo processo di digitalizzazione del compratore. Il compratore, e l'abbiamo espresso anche dalle ricerche, il risultato delle ricerche, anche il compratore digitale ama vedere e toccare la merce, quindi non cambiano quelli che sono, diciamo, gli elementi essenziali del nostro comportamento, che è tattile, che è fisico. Abbiamo le mani e gli occhi e il naso per in qualche misura esprimere giudizi e in qualche misura esprimere le nostre sensazioni. Quello che sta cominciando a capitare è proprio quello che è emerso anche dalla ricerca. Abbiamo lanciato questa ricerca proprio in questi giorni, che si chiama Net Retail, e non l'abbiamo chiamata e-commerce, proprio con questo concetto che il retail beneficerà dal digitale e il retail sarà un elemento fondamentale nel percorso d'acquisto, e già oggi succede in America che il 40% dei venditori sanno perfettamente, dei venditori online, che la merce acquistata però è stata già vista in un negozio, quindi quello che viene chiamato window shopping è diventato un elemento centrale. Quindi l'obiettivo che noi dobbiamo perseguire anche in Italia è creare dei meccanismi in cui ci sia del valore per tutti, sia per il punto di vendita che non vende la merce ma la fa vedere, sia per il retail digitale che vende la merce e poi incassa quello che ne è il corrispondente valore. Quindi il concetto vero del futuro è: il valore che viene generato deve essere ridistribuito tra tutti i partecipanti che partecipano alla creazione di questo valore. Sistemi di pagamento sono ancora oggi un freno, un vincolo per alcuni consumatori o non più? I sistemi di pagamento si sono evoluti moltissimo, le carte di credito sono state sicuramente l'elemento che ha scatenato, diciamo, la facilità con la quale si può acquistare online. Ancora oggi l'80% dei mezzi di pagamento utilizzati online sono le carte di credito, in particolare in Italia le carte prepagate. Però sappiamo anche molto bene che gli italiani hanno paura di mettere i propri codici identificativi della carta di credito online, tant'è che l'Italia è l'unico paese nel mondo occidentale in cui si usano più carte prepagate per pagare che carte di credito. Quello che è avvenuto nel... Non si capisce per quale motivo, è vista la sicurezza dei sistemi di pagamento. Però nella maniera più assoluta non c'è nessun giustificato motivo di utilizzare carte prepagate al posto di carte normali, perché i sistemi di sicurezza sono assolutamente uguali, e tendo ancora a precisare, come faccio spesso, per il compratore non c'è nessun pericolo ad utilizzare carte di credito, carte prepagate, perché comunque non ci sono frodi, le frodi sono ridotte al minimo e comunque la responsabilità della frode dovesse esserci e in capo alle banche e ai circuiti di pagamento. Però detto questo, la paura rimane, quindi possiamo lanciare tutti i messaggi positivi, anche radiofonici, ma la paura dell'italiano di mettere i propri codici delle carte di credito sappiamo che esiste, e c'è, diciamo, in tutto il mondo nuovi meccanismi di pagamento che sono basati sul pagamento sfruttando i conti correnti online, tant'è che in Italia sappiamo per esempio che ci sono 17 milioni di conti correnti online e 13 milioni di carte, quindi chi ha conti correnti online oggi potrebbe e può già, attraverso nuovi sistemi messi a disposizione dalle banche, c'è questo nuovo sistema che si chiama MyBank, che in qualche misura ripercorre un progetto che è stato fatto in Olanda, dove il 70% dei pagamenti di commercio elettronico avvengono utilizzando questi sistemi basati sull'home banking. Ma anche in Italia e anche in Europa è partito MyBank, e già ormai 30 merchant lo stanno utilizzando con successo, per cui di fatto si può pagare direttamente senza fare nessun tipo di come posso dire, manipolazione o artificio di natura complessa, perché di fatto si semplicemente, nel momento in cui si fa la scelta del mezzo di pagamento sul merchant online, si sceglie il pagamento con l'home banking, si apre il proprio conto corrente, il cliente dà l'ok alla transazione e il bonifico viene eseguito in maniera immediata. Questi sistemi poi si coniugano a un altro fenomeno che sta avvenendo, e il pagamento tramite smartphone, che è un altro elemento importante che metterà a disposizione dell'italiano, non soltanto degli italiani, un sistema di pagamento interessante. Perché? Perché lo smartphone, dalle nostre ricerche, dimostra una sicurezza percepita molto elevata, cioè gli italiani si fidano di pagare con lo smartphone perché il possesso fisico dell'oggetto in realtà dà una sicurezza percepita molto elevata. Quindi i progetti che oggi le carte di credito stanno mettendo in atto per trasferire il pagamento sulla SIM o sullo smartphone direttamente senza passare attraverso la SIM, le attività che stanno sviluppando gli operatori mobili per permettere il pagamento con la SIM, i sistemi che si stanno sviluppando già in maniera direi molto attiva, sperimentale, dell'NFC, quindi dei dei pagamenti semplicemente avvicinando lo smartphone a diciamo i nuovi POS che non hanno bisogno in qualche misura dell'introduzione della carta, ma leggono semplicemente per prossimità, sono tutti meccanismi che mettono a disposizione del cliente italiano un potenziale, diciamo, di contatto e di pagamento che chiaramente ha una friendly usedness molto più molto superiore a quella di mettere n codici bancari o n codici di carte di credito per eseguire la transazione. Questo fenomeno sicuramente permetterà uno sviluppo molto importante, perché l'Italia in Europa è il paese dove gran parte delle transazioni hanno un numero di caduta più elevata che negli altri paesi nel momento in cui si arriva al pagamento. Il pagamento, che è il momento della verità, è un momento in cui tremano le ginocchia a gran parte dei compratori. Quindi dobbiamo agire per superare questo momento di paura che oggi esiste ancora, perché gli italiani sono poco digitalizzati, usano poco le carte di credito in genere, non solo nel commercio elettronico, e quindi la facilità con la quale questi nuovi sistemi che stanno entrando nelle case italiane anche attraverso il mobile, quindi l'NFC, quindi pagamenti per contatto piuttosto che i pagamenti facilitati dal trasferimento dei dati di carta di credito sulla SIM e sul telefonino, e i sistemi di pagamento basati sui pagamenti con bonifico elettronico diretto, sicuramente incrementeranno le vendite italiane. Se guardiamo all'insieme dell'e-commerce, le novità eclatanti, quelle che potrebbero far esclamare wow, gli wow announcement, non esistono più, perché questo comunque è oramai un settore maturo. Anzi, alcuni esperti, alcuni addetti ai lavori hanno detto proprio la mancanza di grandissime novità è proprio un segno del fatto che questo è un mercato oramai maturo. Potremmo dire che una novità, forse tra le più interessanti degli ultimi tempi, è l'arrivo di pick-up point, cioè punti di ritiro fisico sul territorio automatici. Si chiamano lockers, cioè sono armadietti automatici. Io compro la merce, magari non voglio ritirarla, non voglio che venga consegnata a casa perché non sono a casa, e non voglio andare nei classici punti di ritiro che alcuni operatori hanno, e questi armadietti elettronici stanno cominciando ad essere distribuiti nelle città anche in Italia, permettono di andare a ritirare fisicamente la merce in un determinato luogo. Basta inserire il codice, si apre questo armadietto e si ritira la merce. Come in tutti i settori, basta usare un po' di fantasia e ci si possono inventare tante cose. Allora, tra le startup che abbiamo incontrato durante il forum di Netcom, abbiamo incontrato Giovanni Riviera, che è uno dei fondatori di Indabox, che ha creato un sistema di ritiro per chi compra attraverso il commercio elettronico ma vuole ritirare la merce in un determinato luogo, magari vicino a casa. Sentite come funziona. Noi siamo una startup, siamo sul mercato da circa un anno e andiamo a risolvere un bisogno che noi crediamo essere fortemente presente nelle persone, che è quello di un ritiro più comodo, più agevole. Tante persone, quando comprano online, hanno il problema di non riuscire a presidiare il luogo deputato alla consegna, perché non sono in casa quando passa il corriere, non sono al lavoro, eccetera. Per cui noi offriamo ai nostri utenti la possibilità di far spedire ciò che comprano online presso uno dei nostri punti di ritiro convenzionati. Attualmente ne abbiamo 500 in tutta Italia, circa l'80% dei nostri punti di ritiro sono dei bar. Senti, come ci guadagnate? Ci guadagniamo perché noi facciamo pagare il servizio di custodia, quindi il servizio di deposito presso Indabox, da un lato o all'utente finale, nel caso in cui questo utente voglia comprare il suo prodotto su un e-commerce che non è integrato tecnologicamente con noi. Quindi è l'utente finale direttamente che paga 3 euro a Indabox, e noi di questi 3 euro riconosciamo 1,50 euro al bar che ha fatto la custodia, che ha appunto tenuto il prodotto in custodia. La seconda modalità di funzionamento, ed è un po' la ragione per la quale noi siamo oggi qui all'e-commerce forum, è che stiamo offrendo la possibilità a chi vende online, a chi ha un sito di e-commerce, di offrire il servizio Indabox direttamente integrato nel proprio sito, al termine, diciamo, nelle fasi finali del processo di checkout dell'acquisto. Naturalmente in tutto ciò c'entra anche la tecnologia, ma l'idea di fondo non è basata su una tecnologia, è una buona idea. Tutto qua, un deposito, un pick-up point di terze parti che può essere integrato o manualmente dall'utente che dice voglio che la mia merce venga ritirata lì in quel punto, magari nel bar vicino a casa. Non ci sono solo bar, ma ci sono anche altri pick-up point. Si chiamano Inda Box, scritto proprio così, Inda Box. Questo è 2024, siete su Radio 24, ci fermiamo per qualche minuto, riprendiamo tra poco. 2024. Stiamo parlando di commercio elettronico, questa è la versione podcast di 2024, vi abbiamo offerto l'intervista a Roberto Liscia in versione integrale, quindi più lunga rispetto a quella che hanno ascoltato gli ascoltatori che ci ascoltano al sabato pomeriggio e alla nella notte tra domenica e lunedì dopo il GR di mezzanotte in FM o in digital radio o in streaming. E adesso vi offriamo un'altra intervista relativa al commercio elettronico. Abbiamo incontrato nel giorno dell'appuntamento del forum di Netcom Edoardo Giorgetti, che è amministratore delegato di Banzai Commerce. Partiamo dalle novità che riguardano questo settore in Italia. Diciamo che c'è una non novità e poi una serie invece di novità. La non novità è che il mercato cresce in maniera lineare rispetto al passato, i dati dicono circa il 17%, comunque insomma doppia cifra in un contesto economico molto difficile. Diciamo che la penetrazione dell'e-commerce sta aumentando sul retail tradizionale, era molto indietro rispetto agli altri paesi e il gap si sta un po' colmando. Non ci sono particolari novità di categorie, nel senso che a crescere sono sempre l'abbigliamento, la tecnologia, c'è qualcosa nell'arredamento, ci sono dei segnali di nuove categorie che arrivano, i vini per esempio, il food sta un po' aumentando, ma non c'è niente diciamo di eclatante. Questa è una diciamo cosa positiva, perché significa che il mercato ha superato la fase in cui ad ogni edizione di Netcom si sente una novità destinata a rimanere no piccola. Adesso tutto sta crescendo su dimensioni rilevanti. Ci sono poi però dei trend che sono invece una novità diciamo recente. C'è un'esplosione del mobile, quindi smartphone, tablet. Il mobile praticamente ormai vale nel mondo più del web in qualche modo, nel senso che Facebook ad esempio è più utilizzato in mobilità che sul computer. Quindi in questo ambito stiamo dicendo che ci sono più persone che, o comunque un numero sempre maggiore di persone che acquistano tramite smartphone. Assolutamente sì, ad esempio in Saldi Privati, che è un nostro sito dove vendiamo abbigliamento con la formula dei saldi online, il 40% del fatturato ormai è fatto da smartphone e da tablet. Significa cioè che ci sono dei consumatori, dei nostri clienti, che preferiscono usare lo smartphone per comprare una maglietta, una camicia o delle scarpe. E lo fanno anche con una certa frequenza, quindi non è una moda o una cosa da tecnici, al contrario. La maggioranza degli acquirenti sono donne, quindi sono ragazzi o donne che usano più volentieri lo smartphone del computer e che quindi trovano più naturale comprare con lo smartphone che con il computer. Questa non è solo una novità, ma è proprio un cambio, no? Significa che quella che prima era soltanto una parola, no, tecnica, dice non c'è più web, si va su smartphone, adesso è diventata una cosa vera. Quindi noi ci aspettiamo, l'Italia poi in questo è favorita perché è uno dei paesi a più alta penetrazione degli smartphone. Ce ne saranno entro il 2016 1,3 a testa, quindi più smartphone che persone, che residenti. Significa che magari questa è l'occasione buona anche per il paese di superare quello che in passato era un problema, scarsa cultura nell'uso dei computer, a favore di uno strumento che noi amiamo molto. L'e-commerce ovviamente deve muoversi, ma la cosa bella è che, e questa è l'altra grande novità di quest'anno, se non altro un segnale forte, e cioè che online, mobile e fisico si stanno tutti confondendo. Quindi ormai dire e-commerce o non e-commerce sta diventando quasi fuori moda. È quasi meglio dire ho vari consumatori, c'è chi preferisce il canale solo fisico, chi vuole solo l'internet e chi vuole un mix delle cose. E le aziende devono iniziare, e anzi accelerare, perché i consumatori stanno andando veloci, le aziende un po' meno, devono entrare in una logica per cui il negozio fisico è solo un pezzo della loro brand. Devono pensare a comunicare online, devono vendere online, devono vendere sul mobile, devono capire che il consumatore è ovunque. Quindi io mi immagino, per esempio, per il futuro anche le vetrine dei negozi cambieranno, perché dovranno tener conto del fatto che davanti hanno una persona con in mano uno smartphone e con quello smartphone interagisce in tempo reale. Poi non sto dicendo, cioè, ovviamente quando si leggono le cose tecniche ci sono le vetrine interattive eccetera, quello magari è il futuro futuro, ma il presente è che uno è davanti ad un prodotto e ha modo di informarsi in tempo reale su quel prodotto, è una cosa che in qualche modo va gestita. Ovviamente molto retail tradizionale questa cosa la subirà, perché inevitabilmente, ma un'altra parte del retail potrebbe guadagnarci tantissimo da questa rivoluzione, perché hai dei consumatori diversi, le persone sono sempre le stesse, ma hanno un bagaglio culturale differente rispetto a prima. Quindi bisogna studiare, capire questo mondo che cambia molto, molto velocemente. A proposito di opportunità, voi siete un player che opera nell'e-commerce con vari brand, ma quale messaggio possiamo dare alle aziende sia nel settore che si rivolge al consumatore finale, sia nel business to business, che possono e magari ancora non l'hanno fatto approfittare dell'e-commerce? Ma io paradossalmente direi di non fare e-commerce, ma di pensare soprattutto all'infocommerce. Cioè molte aziende stanno facendo un errore, che è quello di dire: io non ho neanche un negozio perché produco, no? Però voglio fare e-commerce, cioè voglio vendere. Non lo sanno fare offline, non è il caso di imparare a farlo online. Molto meglio in questo caso è invece avere una cultura online, quindi preparare i contenuti in modo opportuno, lavorare sul prezzo anche in una logica di multicanalità, e poi però banalmente trovare i canali già attivi in giro. Quando si parla di marketplace si intende i price, per esempio, è un marketplace, anche questo è uno dei nostri marchi, puoi vendere i tuoi prodotti tramite e price, ma ce ne sono altri che sono famosi internazionali. Sostanzialmente tua azienda in questo caso ti focalizzi sul prodotto e sull'informazione che veicoli attaccata al prodotto, magari video, review, informazioni tecniche, modalità d'utilizzo, testimonianze, cioè fai il possibile per sostituire quello che normalmente sarebbe un commesso di un negozio che spiega i pro e i contro del tuo prodotto. Dopodiché lasci fare a questi canali la vendita e anche procurare il traffico, perché poi questi marketplace hanno due caratteristiche: ti portano il consumatore e ti si occupano della logistica. Questo perché? Perché per una marca che decide di fare e-commerce, il salto da zero all'e-commerce è molto ampio, no? Mentre se si segue un percorso più normale, che prima divento digitale, cioè imparo come funzionano le cose, poi guardo le opzioni che ho e poi utilizzo queste opzioni via via che maturano, hai un percorso, diciamo, di investimento molto più sano e anche più soddisfacente. Perché paradossalmente è come se uno dicesse: non ho mai fatto un negozio in vita mia e parto da via Monte Napoleone con 400 metri quadri, ho speso 20 milioni per aprirlo e se poi ho sbagliato qualcosa sono rovinato. È la stessa cosa in internet, cioè se non ho ancora neanche la scheda prodotto, se non sono neanche in grado di rappresentare in maniera corretta il mio prodotto, è molto improbabile che riuscirò a fare un sito che vende e che magari vende anche in tutto il mondo, che è ancora più complicato, no? Molto meglio è tornare ho fatto in passato le brochure, adesso faccio la versione elettronica della brochure. Molti lo confondono con mi faccio il sito. Ecco, sito vuol dire tutto e niente, come brochure vuol dire tutto e niente. Se nella brochure c'è qualcosa che non ti convince a comprare, hai buttato via i soldi. Se invece ti dà quelle informazioni per cui vai poi a comprare convinto, hai vinto sulla concorrenza nel momento in cui la gente si informava. Bisogna dire che sia negli Stati Uniti che in Italia ormai circa la metà del retail è complessivo, è influenzato da internet. Se noi pensiamo all'acquisto di un'automobile, quasi tutti ormai guardano tutto in internet, addirittura si fanno la configurazione dell'auto in internet e poi vanno dal concessionario a negoziare il prezzo. Arrivano con un bagaglio di informazioni che è 100 volte quello che avevano 10 anni fa. Computer la stessa cosa, ormai vai tendenzialmente in negozio sapendo già più o meno il modello, le caratteristiche, quanto hard disk, quanto non hard disk. Sull'abbigliamento invece magari c'è meno il concetto del mi informo, perché molto è gusto, come mi sta, come non mi sta, però ho il vantaggio che online posso raccontare delle caratteristiche che il commesso non conosce. Penso al materiale tecnico, al perché c'è quella fantasia, piuttosto chi è il designer, che premi ha vinto, tutte cose che si perdono e che poi diventano la maglietta rossa, no? Parliamo del mercato e di come si è trasformato negli ultimi anni. Anche in questo caso, prima tutti i player del commercio, del retail, erano tutti italiani o c'era qualcosa di internazionale che veniva sul territorio. Oggi la presenza grazie o a causa di internet, ha creato un mercato dove la presenza di competitor stranieri è molto forte. Alcuni, tipo Amazon, tipo eBay, sono molto, molto forti. Quanto ingombranti sono e quanto è possibile raggiungere alcuni leggendari, non so se ha ragione o ha torto, servizi che vengono sbandierati di questi grandi player? Dunque, direi che paradossalmente l'arrivo dei grandi player è un dato positivo, perché normalmente quando vuoi sviluppare un mercato da solo non ce la fai, e la cosa più, diciamo, importante è che gli investimenti cumulati per costruire quel settore siano i più alti possibili. La stessa Google non è nata da sola, è nata perché c'era un ecosistema in America, Yahoo ai tempi, ma tanti altri, che avevano messo dei semi, e poi ovviamente sono stati bravi a catturare una grandissima quota, nello specifico in alcune cose che fanno addirittura quasi il monopolio, ma non sono, nel caso di Google, forti in tutto, no? Se pensiamo a Facebook, si è presa tutto il pezzo social, che pure poteva essere ad appannaggio di Google. Venendo però all'e-commerce, da quando, intanto una cosa importante, il fatto che questi player globali abbiano deciso di aprire delle sedi in Italia e di investire tantissimi soldi in Italia, dimostra che l'e-commerce in realtà è molto locale. Si dice sempre che è globale, ma la realtà è che il 90% delle persone vuole comprare da un'azienda che ha la base nel proprio paese, questo non solo in Italia ma anche all'estero. Quindi se possiamo comprare un libro da una parte o dall'altra, preferiamo quello che ha comunque una ragione sociale italiana. È una cosa psicologica, però avviene in tutti i paesi del mondo, quindi evidentemente è una psicologia di massa. Il fatto che arrivino in Italia fa sì che le regole diventano quelle italiane, no? Quindi la competizione non è più solo su scala globale, dove ci sono dei vantaggi, ma principalmente è una battaglia, diciamo, locale. Quindi il retail è molto locale. Noi come gruppo abbiamo deciso di focalizzarci solo sull'Italia. Pensiamo sia uno dei paesi a più alto potenziale al mondo. Ci dispiace che sia così indietro, ma ovviamente si spera che invece un po' le nuove generazioni, ma devo dire moltissimi anche di persone mature, sono forse più acquirenti dei giovani, stanno spostando l'asticella, e lo si vede nella crescita. In un'economia che arretra, l'e-commerce è a doppia cifra positivo. Quindi il grande player intanto è una buona opportunità, perché crea mercato e quindi contribuisce alla qualità complessiva dell'offerta. Poi ovviamente da operatore ti pone qualche problema, nel senso che poi è competizione. Allora, la nostra partita è ovviamente sull'essere un po' diversi, un po' più italiani di questi player globali. Su alcune cose siamo meglio di loro, su altre cose siamo peggio di loro. Per esempio siamo i market leader nella vendita di elettrodomestici online, lavatrici, frigoriferi, eccetera, perché diamo un servizio completo di installazione, portiamo via l'usato, eccetera. Lo fanno anche altri, però noi siamo molto focalizzati, essendo italiani abbiamo una percezione forse più chiara di quello che va fatto per installarlo in Italia. Abbiamo i Pick and Pay, per esempio. Abbiamo 58 punti dove poi in Italia, ma stanno crescendo, arriveranno probabilmente a un centinaio nell'arco di un temporale abbastanza breve, di punti dove tu compri online da noi e poi vai a ritirare quando ti fa comodo, col vantaggio che puoi pagare anche alla consegna, quindi anche in contanti e pago bancomat, e non dipendi dagli orari dei corrieri. Questa cosa c'è anche altrove, ma è chiaro che un player globale lo legge globalmente, quindi vedrà se negli Stati Uniti tutti hanno il portinaio, non vivrà come un'emergenza il fatto di non avere il portinaio. Se poi vorrà modificare la piattaforma tecnologica, l'Italia arriverà per ultima, perché prima parte dal paese in cui hanno più investimento. Ecco, noi diciamo, come player locale, ma questo avviene in tantissimi casi, anche nei media, voglio dire, essere locale ha dei vantaggi, ha degli svantaggi, ma è una partita, come dire, ampiamente aperta. Quindi non sono preoccupato del livello di servizio. Devo dire che il livello di soddisfazione dei nostri clienti è altissimo, quindi evidentemente, pur avendo provato anche altri, alla fine c'è spazio per tutti. Non c'è nessun paese dove c'è un solo venditore di prodotto, nessuno, e anzi la quota di mercato, per dire, di Amazon, anche in paesi dove ormai è presente da decine di anni, è elevatissima, ma non, come dire, totalitaria. C'è spazio veramente per tanti. Io credo che la partita del futuro sarà ognuno di posizionarsi, di ritagliarsi una propria audience, accettando che ci siano dei global titans americani, tendenzialmente, che Google, Facebook, Amazon, eccetera, hanno appartengono a una lega diversa, sono anche di un paese diverso, no? Cioè, gli Stati Uniti comunque sono i governatori del mondo, quindi ovviamente c'è tutto su scala diversa, ma sia in Italia che in altri paesi europei, non solo, anche in Giappone, ci sono dei player locali fortissimi. Credo che invece un fenomeno irreversibile sarà il fatto che la dimensione media degli operatori tenderà a diventare più grande. a mio parere è un po' finita l'epoca del apro un negozio, faccio 10, 20, 30, 40, 50 milioni di fatturato. Ormai il punto d'ingresso, almeno per alcuni settori, sono le centinaia di milioni, e quindi è molto più facile per un piccolo player agire con i marketplace, quindi usare la forza degli altri, piuttosto che partire da zero. Ti faccio un'ultima domanda tecnologica, visto che il nostro è un programma di tecnologia, una che riguarda l'hardware e i, ormai per alcuni, famosi locker, cioè questi posti dove si può ritirare in maniera automatica e in modo fisico, ma anche una domanda di tecnologia su una delle grandi miniere d'oro dell'e-commerce, cioè la raccolta dati e la possibilità di analizzare i dati. Allora, cosa sta succedendo prima sul mondo hardware e poi sul mondo software, chiamiamolo così? Allora, diciamo che sono due innovazioni molto importanti. Il locker è un po' come il bancomat dei beni fisici. Esattamente come prima c'erano le filiali e si andava a prendere i soldi lì, adesso siamo tutti abituati a ritirare lo sportello. Vantaggi e svantaggi, ovviamente, nel senso, lo sportello fisico è più interattivo, no? Se hai un problema lo puoi gestire, lo sportello bancomat è sempre aperto e in pochi secondi ritiri. Noi crediamo abbastanza a questo fenomeno di locker, devo dire abbiamo i pick and pay anche fisici, quindi abbiamo sia le filiali che il bancomat, lo sportello bancomat, e andiamo avanti su tutti e due, non pensiamo che nulla sostituirà l'altro. C'è un'innovazione tecnologica importante dietro, perché questi locker alla fine sono degli sportelli dove tu vai, metti un codice, si apre da solo lo sportello, prendi il pacchetto e lo consegni e chiudi lo sportello. Ce ne sono già molti? Allora, adesso ce ne abbiamo circa 25 già attivi e funzionanti, diventeranno circa 200 entro fine anno. Si pensava prima a 400, però trovare le location giuste è sempre difficile, quindi è normale che ci sia un po' di ritardo. Quindi vuol dire che io compro online, decido di ritirarlo ad uno di questi locker, di questi magazzini automatici piccolini, sì, che sono magari sparsi nelle città, vado, metto il codice e ritiro. Sì, addirittura puoi andare con lo smartphone, gli mostri il codice, lui vede con la telecamera il codice e apre lo sportello. Quindi ci sono anche persone che hanno prelevato in 10 secondi il pacchetto. Sono tutti posizionati in posti molto sicuri, parcheggio del supermercato, parcheggio dell'area di servizio dove vai a fare la benzina o, diciamo, il trasporto pubblico, quindi zone tranquille dove in pochi secondi, insomma, fai tutto. Non vale per tutto, ovviamente, perché la dimensione massima è buona ma è limitata, e per questo i pick and pay possono far comodo per il televisore più grande, eccetera. Ma insomma, pensiamo possano essere un pezzo che completa l'offerta, no? Quindi hai il corriere, il pick and pay fisico e il locker, e direi che hai tutte le opzioni che servono, che peraltro sono di un livello internazionale, perché anche negli altri paesi queste sono le tre soluzioni. Per quanto riguarda i big data, comunque i dati che arrivano, è chiaro che questa è un'area dove nessuno ha ancora, come dire, trovato la soluzione o la killer application. Cioè, però, quindi, nonostante si parli di questo da molti anni, per adesso si è solo quasi giocato, cioè non si è ancora fatto sul serio. Allora, si utilizzano anche per cose serie, perché se ci si pensa, in molti siti, in e-price, in Amazon, quando entri e navighi, la navigazione in qualche modo si aggiusta e ti fa vedere più prodotto di interesse piuttosto a quello che non ti interessa. Queste sono cose che si fanno, compresa la mail di follow-up, se lasci il prodotto nel carrello, se prima la usi mobile e poi la usi su web. Quindi l'interazione tra i canali è studiata. Però è chiaro che il big data ha una dimensione proprio che è incommensurabile. Come quando è nato Google, abbiamo detto, si cercano i prodotti, si cercano le parole chiave. Adesso fai delle cose, no? La mappa, il prodotto, il video, il volo, no? Ecco, il big data probabilmente è in quella fase lì, cioè noi continuiamo a raccogliere informazioni, le usiamo per il nostro business, ma probabilmente il futuro è quello delle interconnessioni di tutte le cose, no? Quindi sono in mobilità, il mio dato interessa a un altro che non sono io, c'è uno scambio ovviamente sano, privacy, tutto quanto, perché se no non funziona, in cui creo valore per il consumatore. È sicuramente una frontiera eccezionale, ed è chiaro che un online retailer, come possiamo essere noi, ha un enorme vantaggio rispetto a un fisico, e cioè che noi il digitale, il dato, ce l'abbiamo proprio nativo, nel senso che possiamo tracciare tutto quello che un consumatore fa. Devo dire però che ho visto in giro, grandi stazioni ad esempio lo fa, ormai delle tecnologie di per esempio riconoscimento di quando guardi lo schermo, se sei maschio o se sei femmina, questo nel mondo fisico, dico, che sono bellissime, e sono tecnologie che sono praticamente le stesse che si usano in internet, ma con l'appoggio del fisico. Quindi, insomma, se uno combina fisico, online e mobile, che è un po' metà strada, no? è incredibile quello che si può fare. Sfida enorme è di non dar fastidio alle persone, perché se poi si diventa intrusivi, no. Ma questo io sono abbastanza sereno, perché tutto va fatto nell'interesse del cliente, altrimenti il cliente ti molla. Quindi anche le eccessive preoccupazioni, no, di privacy sono è da stupidi per uno che fa questo mestiere, tradire la fiducia del cliente o vendere il dato e fare dei danni, perché non rimani sul mercato, no? Quindi secondo me sono molte di più le opportunità dei problemi. Sicuro è che è una sfida, cioè come tutto alla frontiera bisogna ancora capire come funziona e tirare fuori il meglio di quello che può offrire. Quello dei cosiddetti big data, quindi grandi quantità di dati che vengono raccolti dai grandi portali, dai grandi player della rete internet, ma non più solo da questi player, anche chi ha una presenza fisica lo farà. Abbiamo parlato recentemente ad esempio di iBeacon, ma lo si può fare anche con Wi-Fi, quindi anche nei negozi fisici ci sarà sempre più una richiesta scambiata con servizi gratuiti, offerte o vario tipo di proposte commerciali in cambio di dati che poi verranno rielaborati, la versione tecnologicamente molto più avanzata della carta fedeltà. Naturalmente tutto ciò viene già fatto ampiamente online, quindi la raccolta di dati per capire i nostri desideri, le nostre abitudini, che poi vengono sommate a volte anche in modo anonimo, danno uno spaccato della società. Da quella massa di dati incredibili si possono ricavare informazioni molto preziose, molto importanti, ed è la prima volta che al mondo una così grande quantità di dati viene affidata ad aziende private. Fino a qualche tempo fa la grande quantità di dati era un valore solo contenuto negli archivi dello Stato, era lo Stato che aveva grandi quantità di dati. Beh, oggi invece non è più così, e comunque anche lo Stato potrebbe beneficiare di tutte le tecnologie di analisi ed elaborazione dei dati dalle quali si può estrarre valore. Questo è un ambito di ricerca molto interessante, vedremo tantissime novità, e dovrebbe anche essere un settore dove anche a 2024 proporre alcune interviste. Il problema è trovare sempre gli evangelist, cioè le persone in grado di tradurre in modo semplice questi temi che sono anche molto molto complessi, e la difficoltà è anche trovare persone che non parlino del proprio prodotto, di quello che fanno loro, ma che parlino anche in generale, che siano così umili di mettere a disposizione la propria competenza per un discorso più generale, come ad esempio fa David Orban. Adesso noi parliamo di un tema estremamente importante, prendendo spunto da una email che ci ha scritto più di un ascoltatore, devo dire, ponendo una domanda molto difficile. Visto lo sviluppo delle tecnologie, ne parliamo spesso, soprattutto dell'intelligenza artificiale, quindi dell'automazione, non solo software ma anche hardware, di macchine capaci di fare cose sempre più complesse, visto tutto ciò, che cosa ne sarà delle capacità dell'uomo? Non c'è il rischio che l'uomo venga sostituito completamente dalle macchine? Allora, ci sono libri, dibattiti, pensatori che discutono già da tempo di questa evoluzione della tecnologia e dell'impatto che questa evoluzione, queste trasformazioni avranno sulla società, sull'uomo. È un discorso molto ampio, naturalmente la chiacchierata che noi vi proponiamo oggi è solo uno spunto di riflessione per poi approfondire con libri, studi, dibattiti, eccetera eccetera. Saluto David Orban, che è amministratore delegato di DotSub, ma è qui soprattutto, e noi lo sfruttiamo tra virgolette positivamente, per la sua seconda veste di Technology Evangelist all'interno della Singularity University, che è appunto un'università, un centro di pensatori, un think tank, dove si medita delle conseguenze della tecnologia per il futuro, non solo una meditazione fine a se stessa, ma anche poi per creare un business collegato a queste conseguenze. Dopo questa lunghissima premessa, David, bentornato a 2024. Grazie Enrico. A proposito dell'impatto che le macchine, l'intelligenza artificiale, l'automazione in generale avrà, ti faccio subito una domanda per capire se c'è qualcuno che già ci sta pensando in modo approfondito e se quel qualcuno è in contatto con, non dico i politici, ma almeno i funzionari dello Stato che in qualche modo devono aiutare poi i politici a cambiare le policy degli stati. In effetti il collo di bottiglia di molti cambiamenti di tecnologie che vengono adottate ed impiegate al meglio per il beneficio di tutti è rappresentato dalle policy, le politiche che politici devono disegnare, approvare e poi implementare nelle varie società. Ci sono molte realtà che se ne stanno occupando anche alla Singularity University. Allora noi oggi vogliamo cercare di capire, nei pochi minuti che abbiamo a disposizione, quale potrà essere l'impatto che le macchine potranno avere nel prossimo futuro. Possiamo immaginare in non tantissimi anni che le macchine effettivamente, abbiamo parlato anche recentemente di intelligenza artificiale, la capacità delle macchine sarà così elevata da poter sostituire effettivamente gli uomini in qualsiasi ambito, o sto esagerando? C'è stato uno studio nel 2013 che ha analizzato proprio tantissime categorie di lavoro attualmente svolto da persone per vedere quanto queste categorie fossero soggette all'automazione, classificandole dalla più probabile come lavori di telemarketing oppure il lavoro di un commercialista o revisore contabile oppure vendita al dettaglio, cassiere, già vediamo oggi nei nostri supermercati casse automatiche. Sì. A quelli meno probabili, come può essere il personal trainer, oppure un pastore, un prete, un ingegnere chimico, eccetera. Cito proprio da questo studio. Faccio solo una parentesi. Probabilmente questo studio non è stato fatto in Italia perché il commercialista, penso che col sistema fiscale che abbiamo, se non lo cambiamo fortemente, sarà difficile sostituirlo. Comunque, questa osservazione non è banale perché abbiamo menzionato le politiche. Ci sono politiche in varie nazioni che sembra siano fatte apposta per rendere la società meno produttiva. E le altre che abbracciano l'innovazione ne sono solo che contente perché in termini differenziali guadagneranno in ricchezza e in capacità di crescita, crescita produttiva o crescita di servizi erogati rispetto a quelli meno efficienti. Esatto, questo è un buon esempio per dire che la produttività non è solo un fattore relegato al funzionamento e all'organizzazione delle aziende. Una buona parte della produttività deriva anche dal sistema organizzativo che è fatto da leggi, da regole, da regolamenti di una nazione. Questo sicuramente è. Ma tornando al punto che stavamo analizzando prima, è molto probabile che una buona parte dei mestieri potrà essere sostituita da macchine. Stiamo parlando di una prospettiva che dista 10-20 anni, non stiamo parlando di prospettive di 50 anni. In effetti è una domanda che non siamo i primi a porci. 200 anni fa, quando si sono presentate le prime macchine tessitrici in Inghilterra con la prima industrializzazione, il movimento dei luddisti riteneva di doversi opporre anche violentemente alla loro diffusione perché avrebbero non solo rubato il lavoro, ma questo lavoro lo ritenevano scarso, finito, una quantità insostituibile. Abbiamo visto che non avevano ragione. La automazione, per esempio, dell'attività agricola ha fatto sì che l'80% e più delle persone che si occupavano di produzione di cibo si potessero spostare in città per fare dell'altro. In quegli anni andavano in fabbrica, per semplificare un po' un arco effettivamente di 200 anni. Sì. Successivamente, con la rivoluzione della società della conoscenza, dalle fabbriche si sono spostate alle scrivanie e oggi abbiamo un 3% anche meno della popolazione che è in grado di nutrire il 100%. E abbiamo un 20-30% della popolazione che fa gli oggetti fisici attorno a noi, Tutti gli altri sono in banca, alla radio, si occupano di analisi, altro, sì, di tecnologie. Ma se anche questi lavori, cosiddetti white collar, del colletto bianco, verranno sostituiti dai computer, un gruppo sempre più ampio di persone si guarderà allo specchio e dirà: non ce la faccio più. Sì. Non riesco a riqualificarmi abbastanza velocemente per una nuova occupazione, che arrivano i computer e mi prendono anche quella. Sì. Tu pensi che questo possa avvenire presto? Sì, e lo vediamo già, in effetti. E la crisi finanziaria del 2008 ha prodotto improvvisamente una quantità di disoccupazione che si prevedeva venisse poi riassorbita dal ripartire dell'economia, e i risultati finanziari di profitto delle aziende quotate in borsa negli Stati Uniti, in effetti, negli ultimi anni sono ottimi, la borsa ha guadagnato molto, ma l'occupazione corrispondente non si è manifestata. E c'è un consenso crescente che la causa fondamentale di questo sta nelle aziende che sono state in grado di ripartire, di produrre, con un numero radicalmente inferiore di persone. Come si può reagire a tutto ciò? Perché uno dice, alcuni dicono, l'evoluzione tecnologica farà sì che gli uomini verranno sostituiti in alcuni ambiti, ma potranno ricreare dei mestieri inventandosi cose diverse. Questa potrà essere una soluzione, quindi possiamo confermare che i luddisti di 200 anni fa si sbagliano anche oggi, si sbaglieranno anche nei prossimi anni, o siamo arrivati ad un livello di completezza della tecnologia che sta cambiando un po' queste dinamiche? Io lancerei due messaggi, o darei due risposte di due livelli diversi alla tua domanda. Da una parte, a livello di ognuno di noi, dell'individuo, è essenziale rendersi conto che se i nostri genitori potevano imparare un mestiere e svolgerlo per tutta la loro vita lavorativa, oggi questo non è più vero, e non solo dobbiamo prepararci ad avere uno, due, tre diverse professioni nell'arco dei 30 anni, ma eventualmente dobbiamo prepararci a cambiare mestiere ogni 5 anni, ogni 10 anni, quindi averne 10 diverse nell'arco della nostra vita professionale. Dall'altra parte ci saranno persone che semplicemente diranno: io non sono in grado di fare questo, e non è che a queste persone la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite non si applichi, non è che loro vivano al di fuori della nostra società. Questa dichiarazione, all'articolo 25 che cito, dice: ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio della sua famiglia. Che già oggi per molti non si applica. Nel momento in cui non possiamo ignorare quel 5%, perché è diventato il 50%, la società stessa deve interrogarsi se è il caso di ridiscutere che cosa sono i diritti e i doveri di ognuno quando nasce, quando vive all'interno di questa società, e rifondare il contratto sociale corrispondente. A tuo parere, come si potrebbe fare per ripensare la società di fronte a una tecnologia che appunto invade molti ambiti, se non tutti? La tua domanda non è tecnologica, non è nemmeno economica, è una domanda politica, e ti rispondo molto volentieri. La diseguaglianza di ricchezza che si accumula attraverso una diseguaglianza di reddito può superare certi livelli. C'è il coefficiente Gini che esprime l'indice corrispondente in una data società. E superati certi livelli di diseguaglianza, e appunto del coefficiente Gini, storicamente si vede che succedono concretamente delle rivoluzioni. E le rivoluzioni sono esaltanti per i loro protagonisti, e sono epoche incredibili di creazione e di distruzione, ma non sono tradizionalmente controllabili. Anche chi le fa partire si accorge che sfuggono di mano. Quindi io ritengo che sia molto importante per la società di oggi, che è riuscita a creare negli ultimi 50 anni cose incredibili e che sta portando miliardi di persone ad affrontare opportunità impensate a prima, e affrontare come calmierare questo andamento di una diseguaglianza progressivamente sempre maggiore. E quindi come offrire alle persone che per mancanza di opportunità o anche per mancanza di capacità una vita dignitosa. Sì. Quindi alla domanda molto secca, se in questi anni, nei prossimi anni, la tecnologia sta creando, creerà disuguaglianza, la risposta è sì. Assolutamente sì, ed è compito della società intervenire perché questa diseguaglianza non provochi conseguenze catastrofiche. Sì. Senti, a proposito di tecnologia, visto che comunque il nostro è un programma di tecnologia e in questo caso stiamo parlando di alcune conseguenze che potrebbero derivare da questa tecnologia che si velocizza sempre, che cambia in modo sempre più veloce e che diventa effettivamente sempre più incredibile. Quali sono, a tuo parere, gli elementi più importanti, tecnologici, che cambieranno ancora di più la società nei prossimi anni? Tu hai fatto riferimento, ad esempio, a chi si occupa di marketing, che verrà sostituito dalle macchine, perché la raccolta di dati, quando noi navighiamo e quando noi compriamo, quando noi facciamo, direi ormai qualsiasi cosa, creerà una base di conoscenza per le società che si occupano di vendita o di qualsiasi altra cosa, tale per cui molto del marketing diventerà automatico e gestito dall'intelligenza artificiale. Ecco, in generale, se vogliamo fare riferimento alle tecnologie che cambieranno le dinamiche nei prossimi anni, che cosa possiamo dire? C'è un denominatore comune molto importante che non ha bisogno di avanzamenti radicali come appunto il presentarsi di intelligenze artificiali e che già vediamo attorno a noi. Ed è il cambiamento da organizzazioni gerarchiche centralizzate verso organizzazioni di rete distribuite di tutte le nostre attività. Per esempio, la produzione di energia basata su impianti solari è distribuita, opposta a quella tradizionale di centrali a petrolio, sì, o a carbone. Sì. E nel momento in cui tu sei in grado di produrre l'energia da te, affronti il resto in cascata delle tue attività economiche, individuali, della famiglia o dell'impresa in una maniera completamente diversa. Analogamente, la tecnologia della stampa 3D è una manifattura distribuita, sì, che oggi è agli inizi, ma che realizzerà delle cose mai viste prima. Immaginati, sì, per esempio, la sua applicazione nell'edilizia. In Cina già oggi ci sono esperimenti di stampa 3D di case intere con costi e tempi ridotti di ordini di grandezza rispetto ai metodi tradizionali. Sì. Vedo tutto ciò molto più spiccato già oggi nelle tecnologie digitali. Molte cose che si possono fare con lo smartphone stanno appunto creando una disintermediazione, una distribuzione di cose che prima venivano fatte centralmente. Faccio un esempio che si lega un po' anche ad alcune polemiche di questi giorni, ad alcune proteste di questi giorni. Un'applicazione per lo smartphone può sostituire il radiotaxi, il concetto di un centralino che risponde agli utenti e manda un'auto di qua e di là. Al di là delle regole che ci sono e devono essere rispettate, però effettivamente questo è un esempio che è molto più presente nella società di oggi, mentre l'energia e la stampa 3D sono cose un po' più lente a verificarsi. Noi vediamo proprio in questi giorni una protesta violenta che rappresenta un disagio che non può essere trascurato, sì, ma la società italiana ed altre europee devono interrogarsi come affrontare il cambiamento che è irresistibile. In Francia, per esempio, hanno cambiato le regole e io sorrido perché la decisione che hanno preso è: Nel momento in cui tu chiami la macchina con il tuo smartphone, questa è obbligata a venire a prenderti non prima di 15 minuti. Allora, per carità, di decisioni se ne possono prendere tante, ma questa non mi sembra una delle ottimali. Ecco, un altro punto interessante è in quel processo che tu descrivevi prima, il cambiamento delle regole è importante. Cioè, di fronte a nuove tecnologie, molto probabilmente sono le regole che devono cambiare, piuttosto che la tecnologia che si deve adattare a regole di oggi. Le regole possono cambiare in direzioni diverse. Di fronte a te adesso, come stiamo parlando, è aperto il mio computer e in quello precedente avevo un adesivo, i miei notebook sono sempre ricoperti, che diceva in inglese P2P is not a crime. Lo scambio di file non è un crimine. P2P è il peer-to-peer. Il peer-to-peer, gli scambi era sì. Ai tempi di Napster che sì, sì. Nascevano le prime applicazioni che coinvolgevano non un amico a cui passavi l'audiocassetta, ma milioni di amici, fra virgolette, che non hai neanche mai incontrato. Sì. È interessante che viviamo in un mondo che ha deciso di andare in una direzione dove i grandi investimenti fatti da Apple e Google per i loro data center, per la distribuzione di app o di file di altro tipo, sono visti da Wall Street come qualcosa da premiare, senza riconoscere che è un ramo di futuro che stiamo percorrendo che esprime un'enorme inefficienza. Se avessimo abbracciato 10 anni fa la distribuzione peer-to-peer dei file, oggi i nostri telefoni si passerebbero le app e siccome la maggior parte delle app sono gratuite, siccome le app a pagamento stanno svanendo, sono state una parentesi brevissima nell'evoluzione di questo ecosistema, non ci sarebbe niente in contrario. E nessuno ci sta pensando? Perché le politiche legali che sono state messe in piedi hanno criminalizzato questo tipo di attività o l'hanno reso talmente difficoltosa sì. Che chi aiuta coloro che vogliono tentarci, le start-up, con gli investimenti, non appena vede che è previsto questo tipo di impostazione, se ne sta alla larga. In che senso le app sono una parentesi? Le app a pagamento. Ah, ok. Le app a pagamento sono una parentesi. Probabilmente anche le app, intese come quelle che noi utilizziamo oggi, perché passeremo forse presto a, vedo che tu hai una tra gli adesivi anche HTML5, passeremo presto ad web app. Passeremo anche oltre, la miniaturizzazione delle nostre dei nostri device non si sta fermando, si sono miniaturizzate fino a farle sparire le tastiere, per quello abbiamo adesso il riconoscimento vocale che sta migliorando sempre di più, ma tra poco spariranno anche gli schermi ed è per quello che stiamo parlando di oggetti che si possono indossare. Nel momento in cui spariranno anche gli oggetti che si possono indossare è perché saranno all'interno del nostro flusso sanguigno o direttamente comunicheranno con il nostro cervello. E gli assistenti digitali che adesso stanno emergendo da Siri di Apple a Cortana di Microsoft a Google Now di Google, che poverino dovrebbe avere un nome un po' più sexy, e avranno un ruolo fondamentale per aumentare la nostra intelligenza. Infatti intelligenza artificiale, AI, è solo uno di una coppia dove l'altro è augmented intelligence, intelligenza aumentata, quella che ci rende più potenti ad eseguire lavori utili da un punto di vista produttivo o utili alla società in generale, anche in settori tradizionalmente definiti come il non profit, che daranno sempre più opportunità alle persone di esprimere i propri desideri, i propri propositi, all'interno di un contratto sociale che però ne riconosca il valore. David, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e buon viaggio, visto che sei sempre in viaggio, noi ogni tanto quando passi da Milano ti intercettiamo. Possiamo fare queste cose anche effettivamente quando tu sei dall'altra parte del mondo, però l'interazione umana in questo caso è importante. Sono d'accordo con te e torno sempre volentieri. Grazie. Anche per questa settimana tiriamo giù la serranda a questo punto. Chiudiamo un'altra puntata di 2024, torneremo la prossima settimana. Non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica 2024, quindi 2024, @radio24.it. Potete partecipare alla nostra discussione su Facebook, a volte animata, a volte un po' meno, dipende dalle settimane, oppure potete seguirci o dialogare con noi anche attraverso Twitter. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ad Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana. Non ho detto in questa puntata, ma visto che questa è la versione podcast e quindi non abbiamo problemi di tempo, non ho detto una cosa che mi sembra invece rilevante ed importante, una sorta di ripicca che il governo cinese ha fatto nei confronti degli Stati Uniti, ma in modo particolare nei confronti della Microsoft, perché ha annunciato che proibirà l'uso di Windows 8 sui computer del governo. Quindi non vale per la versione commerciale che viene venduta nei negozi, ma solo per i computer del governo. Il governo cinese ha detto non vogliamo Windows 8 per non dipendere da un'azienda straniera per l'aggiornamento, ma naturalmente dietro a questa decisione c'è tutto uno scenario di spionaggio industriale, quindi di una battaglia tra Stati Uniti e Cina. Sapete che recentemente sono state incriminate alcune persone negli Stati Uniti, alcune persone cinesi che sono accusate esplicitamente, dopo tante volte in cui aziende o il governo americano aveva detto occhio che i cinesi ci stanno spiando e avevano denunciato questa cosa, c'è stata un'incriminazione vera e propria. Quindi molto probabilmente questa decisione, che anche ha delle motivazioni, perché effettivamente ha un senso dire non vogliamo dipendere da un'azienda straniera per l'aggiornamento del software, ha un senso, ma dietro a tutto ciò ci sono motivazioni anche di carattere politico. E comunque il problema dello spionaggio industriale è un problema non solo per gli Stati Uniti, anche per il nostro paese, dove molte aziende hanno proprietà intellettuale da proteggere. E bisognerebbe si facessero un po' più furbe, perché poi succede che magari fra qualche anno scoprono che esiste un prodotto molto molto molto molto simile al proprio e si chiedono come mai, che era contenuto negli archivi segreti della nostra azienda. Spionaggio digitale industriale, ne abbiamo parlato recentemente a 2024 e anche questo è un tema su cui dovremmo tornare. Per gli amanti di Linux dico che la Cina vuole, e lo sta già facendo da tempo, sviluppare una propria versione di Linux per l'uso all'interno del governo. Bene, a questo punto è davvero tutto, quindi la serranda la possiamo far scendere. Ci risentiamo la prossima settimana. Come sempre un ringraziamento per la vostra attenzione e in modo particolare per tutti coloro che durante l'ascolto del podcast corrono, camminano, passeggiano e si rilassano. Grazie e a presto. 2024.